Grazie a tutti, tutte. Scusateci tanto per il ritardo, abbiamo tardato, il programma oggi era ricco, di là sta finendo ancora la presentazione prima, siamo alle domande. Intanto comunque questa la stiamo mandando su Radio Wombat, la registreremo e sarà disponibile in podcast sulla stessa radio. Quindi prego anche chi dal pubblico poi volesse intervenire di farlo al microfono. Allora, insieme anche a Lorenzo del collettivo Criticity, che è un progetto di discussione sullo spazio urbano, per cui hanno pubblicato anche alcuni libri, uno è qua, altri sono ai banchini, ne parlerà anche dopo. Presentiamo gli ospiti. In questo incontro che abbiamo intitolato Le città visibili, parleremo con Tommaso Montanari, Alessandro Santoro, Grazia Galli, Massimo Lensi. Adesso diremo direttamente una parolina di ciascuno quando li introdurremo. Non hanno insomma bisogno di presentazioni. Comunque il titolo di questo incontro è Le città visibili. Abbiamo pensato di giocare col titolo di Calvino per domandarci quali sono le città che oggi nella nostra città vediamo, quali città non ci è possibile vedere pur volendolo e a quali invece, a seconda di chi guarda, scalda oppure brucia l'animo guardare. A confronto abbiamo pensato di mettere varie dimensioni e questioni, e il centro, la questione del patrimonio artistico, l'accessibilità ai luoghi, la questione della legalità e soprattutto direi la questione del margine e della periferia. Lo vorremmo fare appunto con questo moto centrifugo, iniziando dal centro e allontanandoci. Quindi dopo parleremo con Tommaso e Alessandro, inizieremo con Grazia Galli, Massimo Lensi, che sono autrice e autore della Filosofia del Trolley, un'indagine sull'overtourism a Firenze, è questo libro qua, c'è anche disponibile fuori dal banchino. È diviso in tre parti questo libro, la prima è la passeggiata di un residente del centro storico nella propria città che vede cambiare sotto ai propri occhi. La seconda parte invece, numeri alla mano, analizza, affonda la questione approfondisce la questione del fenomeno dell'overtourism nella città. Nella terza si individuano alcune soluzioni e viene posto il problema della partecipazione alla presa di decisioni. Su quest'ultimo aspetto vi coinvolgeremo nel secondo giro. Invece in questa introduzione vorrei partire proprio dal centro città, che ci sembra così emblematico, questo centro fierentino, anche con i suoi numeri, col suo costante afflusso di crescita turistica, potente e smisurato da più di 15 anni a questa parte, col suo avere il triste record di essere la città italiana col maggior numero di affitti Airbnb nel centro storico, quasi il 20% degli immobili totali, con l'enorme crescita degli esercizi ristorativi che è avvenuta dal 2012 dopo il decreto liberalizzazioni del governo Monti, che ha fatto sì che oggi arriviamo a contare 217 esercizi ristorativi per chilometro quadrato dentro al centro cittadino, questo centro sempre più estrattivo, che si svuota completamente di residenti, servizi, botteghe, anime, e mentre i prezzi crescono, mentre gli studenti assieme ai luoghi universitari vengono allontanati dal centro, spariscono anche gli ambulatori, le case popolari, la vivibilità. E tutto questo, per dare un destro anche per dopo, mentre si regolamenta sempre di più la vita pubblica, la vita sociale, si svende il patrimonio pubblico. Cito qualche luogo per rimanere soltanto in centro, per dire soltanto di ciò che è grosso e di ciò che è attualmente in atto oppure da pochissimo stato fatto, e il nome dei luoghi svenduti o in svendita, in alienazione da parte del Comune di Firenze, parlo di nuovo di luoghi pubblici, è enorme, dico qualche cosa: l'ex teatro comunale, l'ex tribunale di Piazza San Firenze, il palazzo, i giardini, Vivarelli Colonna in Sant'Ambrogio, l'ex caserma Vittorio Veneto in Costa San Giorgio, l'intero complesso di Sant'Agnese o l'ex convento di Sant'Orsola, tutto quanto a San Lorenzo, il teatro in via Decimatori, che era la sede delle mirabolanti imprese in vernacolo di Stenterello, la maschera della commedia dell'arte fiorentina, oppure l'ex sede della Casa di Risparmio in via Bufalini. Non sono sicuro, ma credo anche la rotonda del Brunelleschi in via Alfani, anche questa è in alienazione per conto del comune. E come sempre, per chi, per farne cosa, per facoltà, facoltose, società, imprese estere o italiane, che spesso, anzi quasi sempre, le destinano a alberghi a 100 stelle o appartamenti di lusso. Questo per quanto riguarda i palazzi storici e per introdurre anche il secondo tema e poi iniziare, insomma, questo incontro. Anche ci sono le piazze, le vie, dove conosciamo sempre più divieti di consumo e stazionamenti nelle vie, nelle piazze della città, DASPO urbani, presidi fissi di polizia, carabinieri, tutto in nome della lotta al degrado, che però degrado più di tanti altri è un concetto profondamente soggettivo. Che cos'è degrado? Ci domandiamo, magari per le istituzioni, guardando ai titoli di giornali, alle dichiarazioni, ai regolamenti comunali. Sicuramente è degrado un clochard oppure uno studente, magari ben vestito, che beve una birra seduto sugli scalini di una sedia chiusa. Oppure è degrado urinare in strada nella città che non conosce un bagno pubblico, che sia uno. Oppure è lo stesso degrado per le istituzioni, magari un luogo come quello in cui siamo adesso. Per le stesse, magari non è degrado invece l'enorme numero di dehors, di ristoranti e bar che occupano le vie, le piazze, oppure i cartelloni pubblicitari sulle facciate dei palazzi, oppure i cordoni di velluto che impediscono di sedere su uno scalino, di accedere al sagrato di una chiesa, di godere anche della facciata di una chiesa, come succede per il Duomo di Firenze. Ecco, questo appello al degrado, questo appello vago, intenzionalmente buono per tutte le stagioni, per titoli effetto, per essere un pretesto per installare nuove telecamere, è sicuramente molto stridente. Di questo vorremmo parlare oggi e quindi nel passare la parola vorrei finire dove abbiamo iniziato, cioè da Calvino, e sempre per giocare col suo titolo vi vorrei domandare in queste città invivibili, che sono questi centri cittadini, cogliendo il caso emblematico di Firenze, cos'è vivere e studiare il centro città? Scusami. Sì, certo, che cos'è? Vi volevo passare la parola per portare una testimonianza da residenti, da studiosi del centro città, ne avete fatto un libro, e poi dopo ci vorremmo allontanare. Grazie. Intanto, buon pomeriggio, buonasera a tutti e un ringraziamento all'ex Emerson per aver organizzato questa bellissima 3 giorni di attività su letteratura, immaginario e altro. Sì, e ha ragione. E poi per averci coinvolto in questo dibattito su le città visibili, i centri storici invivibili e tutto il resto. Ora, io sono convinto che sto parlando a una. Sì, no, un reggitore di microfoni è un'attività molto importante. Senti, ma perché non ci metti le manine te così? Chiedi, così sto, c'ho le mani libere. Eccoci. Allora. E penso, ho detto, di trovarmi di fronte a persone che di questi problemi ne sanno qualcosa, li conoscono. Allora, prima ho ringraziato l'Emerson, ma comunque devo fargli un appunto sulla parte dell'amplificazione. Allora, sono convinto, lo ripeto per la terza volta, che voi sappiate già tutto su questo argomento, cioè di come si vive a Firenze, le strategie, i modelli di sviluppo che ci sono attorno a questa città, quali sono le ragioni politiche che hanno cambiato il volto della città di Firenze e di altre città in Italia da 20 anni, 25 anni ad oggi, e il perché e il per come ci troviamo qui a resistere ai cambiamenti e ai modelli di sviluppo sui quali. Questo libro che abbiamo scritto io e Grazia lo abbiamo scritto 3 anni fa ormai, prima di un avvenimento epocale che è quello del Covid, quello della pandemia, quando abbiamo scoperto e tutti hanno scoperto il centro di Firenze vuoto, ma non vuoto di turisti, vuoto di tutto, vuoto di residenti. Proprio c'erano certe vie del centro di Firenze dove non camminava nessuno, cioè non si poteva camminare per il lockdown, ma proprio era una città vuota. Il volto della trasformazione in quel momento diventò visibile e quindi la politica, guardate, se andate a rintracciare il dibattito di quei giorni di lockdown, si accorse addirittura che le cose non andavano perché c'era qualche problema legato alla turistificazione, all'overtourism. Poi dopo vi dirò qualche cosa sul turismo. E quindi, apriti cielo, dobbiamo cambiare modello di sviluppo ed è tutto... Perché le cose così non vanno. Bene, passato il lockdown, finita la pandemia, riaperto tutto, le cose sono peggiorate. Ora io mi occupo, all'interno delle mie, dell'attività che svolgo, di un particolare delle città non vivibili, del carcere. E io molte volte vado al carcere nel carcere di Sollicciano, faccio attività di verifica e controllo, e se dovessi leggere il rapporto e le relazioni che esiste tra la città di Firenze e il suo carcere, compreso anche il custodio attenuata e il minorile, vedrei quello che comunemente si chiama, con termini un po' impropri, un carcere di scarica sociale, dove finiscono moltissimi di quelle cose che ai modelli di sviluppo non vanno bene. Ora però bisogna ritornare e fare un passo indietro agli aspetti che sono più interessanti per quanto ci riguarda, avendo di fronte persone che, sono convinto, sanno già tutto su questo argomento, cioè hanno critiche di quello che si vive in città, critiche rispetto a determinati avvenimenti che sono accaduti nell'evoluzione di una città e del suo respiro urbanistico negli ultimi 15-20 anni. Dal punto di vista politico, sociale ed economico. Bene, avendo di fronte questo tipo di persone, dico che per cambiare, per invertire la tendenza da quando noi abbiamo scritto questo libro nel 2019, oggi che è il 2022, lo sforzo da fare è un altro. Le città periferiche, io dico sempre, il centro di Firenze è la periferia morale di Firenze ormai. Non ha più niente a che vedere con un centro di una città con le sue bellezze, come, ma insomma, stesso dicasi per Venezia, per San Gimignano, per altre città. Non ha più niente di un centro vitale, un centro politico, è la periferia morale della città, dove invece attorno questa periferia morale si sta irradiando sempre di più per controllare tutte anche le altre componenti urbane. Una volta si diceva che da dove passa la tranvia lì avviene la turistificazione e attorno si ha l'immediata visibilità del cambiamento dei negozi di prossimità, della vita, la comparsa dei B&B e di tutto il resto. Però c'è un fatto che io credo che sia importante valutare. Non è il turista in quanto tale a provocare il danno. Turisti siamo tutti. Prima diceva Tommaso, ma andiamo alla Petraia perché ho voglia di rivederla. In quel momento antropologicamente ho modificato dentro di me un po' la componente. Mi sono trasformato in un turista perché volevo andare alla Villa alla Petraia e rivederla. L'avevo già vista. Per cui non è il turista, i 18 milioni, 16 milioni di presenze turistiche in città Capitoline. Già la parola turista dovrebbe essere modificata da questo, dalla nostra collettiva modalità di vedere le cose. Perché il punto principale che l'industria turistica, cosa ben differente dal turista, ha modificato è il consumo. Ed è lì la battaglia da fare. Il consumo di territorio, di cittadinanza, di diritti. Ed è su questi aspetti che la riflessione dovrebbe partire da tutti noi, proprio da quelle che sono le città non vivibili, ed è lì la trasformazione antropologica. E turisti siamo un po' tutti, chi fra di voi non va un po' in vacanza, chi non si prende, io quando ero giovane, quando scattava l'estate, facevo il mio zaino, ci filavo il sacco a pelo per 3 mesi, ciao cari, ero un turista, oggi si direbbe sostenibile, turista di quelli a 2 lire in tasca che gli ultimi giorni delle vacanze fa il digiuno per poter tornare a casa. Però chi di voi non va al mare, in spiaggia o quando può si gode una settimana, non so, in Puglia, sul Gargano o per vedere una città d'arte? Tutti abbiamo naturalmente questo desiderio. Quindi la turistificazione e il portare alla criminalizzazione del turista è un errore indotto dal modello di sviluppo in quanto tale, perché poi certe volte ci accorgiamo che la turistificazione e l'overtourism diventano il migliore alleato del tourist go home. È il dialogo che è come sempre alla base per far tornare la Firenze, impossibile, questo lo dico come sogno, a quell'equilibrio di 30 anni fa quando ero studente universitario, dove il turismo era realmente una risorsa per la città. Era la famosa, oggi, qualche anno fa c'era la casalinga di Voghera, oggi c'è la casa della nonna che viene riproposta per quelle persone che dicono ma io no, l'Airbnb, il B&B, io ho la casa della nonna avuto in eredità, la metto a frutto per tirare a campare perché non arriva alla fine del mese. Balle, sono tutte balle queste. Non esiste più né la casa della nonna né la casalinga di Voghera. Però il modello di sviluppo, attraverso tutte quelle che sono i fronti aperti dalle amministrazioni comunali, e in primis quella di Nardella, in primis prima ancora quella di Renzi, e andando, cioè proprio un percorso storico-politico di continuità serrata nelle politiche amministrative che hanno visto questa città cambiare volto da quegli anni 70 che vi dicevo prima. Allora, per arrivare al punto, il residente, cioè quel libro, la prima metà del libro è un racconto di un personaggio inventato, si chiama Lucio, che incontra durante una giornata tutti gli amici e si chiede ma io vivevo bene in questa città un tempo, ora mi ritrovo in un'altra città, e chiede all'amico giornalista, alla fornaia, al barrista, perché? E il perché è semplice, perché è il mercato che fa questo, è un mercato che però non ci piace, perché l'assenza di regole di un mercato in cui il diritto è eliminato completamente, effetti della globalizzazione, dove anche le regole scompaiono nel nulla e dove non c'è la materia prima, quella che tra i popoli unisce e dice ok, si arriva fino a questo punto e si modifica. Anche il mercato ha bisogno di regole a livello internazionale, e oggi non esistono. Gli strumenti della tecnologia avanzata hanno portato a questo condizionamento della nostra vita di tutti i giorni. Guardate che una delle frontiere nuove del turismo è l'intelligenza artificiale. Deluxe, turismo di lusso, ma l'intelligenza artificiale, i nuovi varchi, il metaverso, è la nuova frontiera del turismo. Anche lì si sta insinuando. Quindi le città, per cambiare volto, hanno bisogno, prima cosa, di uscire da quello che noi siamo qui, essere ognuno di noi portatori di una volontà di cambiamento, e trovare persone che ci ascoltano e dicono ma voi volete vivere in questa città? Lo dico così, la butto lì, ma c'è una piccola occasione che ora arriva, e mi piace dirlo nonostante le criticità, sono questi due referendum che un'associazione, che è un gruppo di associazioni, Firenze Città Aperta, pur non tecnicamente potrebbero, poi c'è il POC che arriva, il piano operativo, quindi ci potrebbero essere relazioni, però sono delle occasioni di mobilitazione e di attività. Forse parlo troppo, tu mi interrompi, vero? Fare un po' di... sì, no, c'ha ragione anche te, se no vi sto a spaccare i cabasesi, come si dice. Io ho finito e vi ringrazio veramente. Allora, io volevo solo aggiungere un ulteriore spunto di riflessione a quello che ha detto Massimo, perché appunto quando abbiamo pensato e scritto questo libro, quello che ci eravamo prefissi è di cominciare a raccontare quello che sembrava allora non raccontabile, no? E che però vivendo la città ci rendevamo proprio conto che stava modificando l'antropologia della città. Non ritorno sul fenomeno Airbnb, lo accenno soltanto. Airbnb è vero che è una cosa che è cominciata come sharing economy, ed è esattamente quel tipo di meccanismo pervasivo che ti si presenta come quasi l'offerta di poter esercitare un diritto, no? Al di là di quella che se no è una strutturazione del lavoro, dell'impresa, che è estremamente complicata. Tu ci entri, rompi lo schema che è quello della rete sociale, che si tiene anche attraverso il rispetto di determinate regole. E il gioco è fatto perché il meccanismo entra. E in questo senso l'industria del turismo come motore di modifica della relazione sociale sta continuando a operare e sta, dopo essersi appropriata dello spazio, si sta anche lentamente appropriando di quello che è il meccanismo di controllo, seppur inefficace, seppur non ci piace, lo vorremmo diverso, però il meccanismo di controllo democratico sulla città. Pensate alla tassa di soggiorno. Ormai chiunque a Firenze vive la tassa di soggiorno come un rimborso dovuto, ok? In realtà è proprio attraverso questo meccanismo, che è ingiusto, iniquo e profondamente distorsivo del rapporto tra pubblico e privato, che quello che si sta facendo è sdoganare la città del residente temporaneo. Non a caso ora abbiamo un piano, andremo a discutere un piano operativo che è pieno di schede di investimento pubblico. Poi dopo ci accorgeremo che tutte queste schede di investimento pubblico portano a Firenze il modello Milano. Investimento pubblico affidato al terzo settore, attraverso il terzo settore poi alla finanza etica e discutibilmente tale. Però è proprio attraverso questi meccanismi che si altera in maniera pervasiva il nostro rapporto con la città. Quante volte vi siete sentiti dire che è grazie alla tassa di soggiorno che paghiamo i servizi alla città? Quante volte vi siete sentiti dire che è grazie alla tassa di soggiorno che non si paga l'addizionale IRPEF se non in misura estremamente ridotta e solo al di sopra dei 25.000 euro di reddito? Non è così. La tassa di soggiorno è una tassa che va spesa per investimenti a favore del turismo. È una tassa che serve a rendere la città dipendente dal turismo, perché il turismo crea consumo e ha bisogno di servizi. Tu sei vincolato a fornirne di più. Uno dei servizi che fornisce la promozione della città è l'incentivo di ciò che richiama i turisti. Con questi soldi chiami ancora più turisti, sei costretto a fare ancora più spese e hai bisogno ancora di più di tassa di soggiorno. Non a caso Firenze ha brigato, il primo atto del parlamentare fiorentino neoeletto è stata far aumentare la tassa di soggiorno a Firenze fino a 10 euro. Ok? Questa cosa qui alla città non ne viene niente, ma proprio niente. Gli viene sì lo spazzamento e il tener pulito il centro storico, dove la città, da cui la città è totalmente espulsa. Però è proprio grazie a questo meccanismo che si rende la pubblica amministrazione dipendente dall'incremento esponenziale di posti letto. Quindi ci sono, e poi la chiudo e magari ci ritorniamo dopo, ci sono, al di là dei meccanismi in cui è molto chiaro ci siamo noi qui, ci sono loro là, quello su cui invece dobbiamo cominciare ad alzare le antenne e a guardare sono i meccanismi con cui riescono a condizionare il nostro comportamento e il nostro rapporto con la città, perché attraverso questi ci tolgono anche quel poco di esercizio del controllo democratico che abbiamo. Grazie Massimo, grazie all'Emerson per ospitare questa iniziativa. Io appunto sono Lorenzo, sono qui come portavoce di Criticity, che è un collettivo che si occupa di progettazione urbana e ricerca e divulgazione. C'è anche Emma tra il pubblico, è un altro dei membri del collettivo, poi ci sono altre persone che oggi non sono potute venire. E il nome del collettivo, appunto, Criticity, mette insieme, sfruttando l'inglese, un po' i termini criticità, critica e città, proprio perché la nostra ricerca partiva da un modello che doveva essere una provocazione di una città critica con in contrapposizione ad una città negata, no? E questa contrapposizione verteva su due assi, in particolare un asse è quello che è stato un po' toccato, che è quello dell'omogeneità e dell'omologazione che la città contemporanea, la città diciamo globalizzata, tende ad avere nella sua offerta di servizi e di spazi urbani, che appunto si contrappone invece a quella che è l'identità locale delle città e di uno sviluppo culturale reale. Questo mi permette un po' di avvicinarsi ai temi di Tommaso, e, perché appunto qui sul tavolo c'è un suo libro che è Privati del Patrimonio, che è un bellissimo libro inchiesta su vari aspetti, molti specifici anche al caso fiorentino, di come appunto si produca una città culturale che è una città culturale strettamente legata all'industria turistica, no? E quindi la dinamica che si innesca nella produzione di urbano, della produzione di offerta di urbano, specie guardando al turismo come risorsa economica, è quella di una progressiva finzione culturale che deve assecondare lo stereotipo del turismo, che deve assecondare le aspettative dell'industria turistica, che va appunto poi ad incidere su quelle che sono invece i reali interessi, i reali tessuti sociali di cui una città è fatta. E c'è un termine molto forte in apertura del libro che spiega in maniera perfetta l'approccio alla risorsa turistica e quindi alla risorsa della città culturale. E il termine è petrolio, perché appunto come una patina diciamo, indistinta oleosa, la città si impregna di tutta una serie di connotazioni che devono avere un diciamo devono essere corrisposte a delle aspettative del turismo, però il petrolio è anche un qualcosa che determina un approccio estrattivo che è esattamente quello esattamente l'approccio compatibile con il nostro modello ideologico, no? Il modello del neoliberismo che esatto, il cercare di ottenere il massimo da tutto, anche da ciò che non dovrebbe in realtà essere votato al profitto. E la città, diciamo, come risorsa per i cittadini è in questo senso dovrebbe essere altro rispetto a qualcosa da cui diciamo estrarre valore. E mi permetto di leggere proprio un passaggio velocissimo da questo libro che ci riporta un po' alla riflessione su quello che dovrebbe essere il rapporto tra cittadini e città. Se lo trovo, eccolo: il patrimonio culturale non può essere messo a servizio del denaro perché è un luogo dei diritti fondamentali della persona e perché deve produrre cittadini, non clienti, spettatori o sudditi. In questo senso introduco appunto il professor Montanari e diciamo, le chiedo di appunto, sviluppare un po' una riflessione anche rispetto a quello che è l'attuale rapporto tra cittadini e città e come l'industria del turismo impatta sull'alterazione di questo rapporto tra residenti, città e poi anche come si creano le tensioni tra cittadini residenti e poi quelli che sono i turisti. Buonasera anche da parte mia e grazie all'Emerson e grazie a tutti voi, grazie a Lorenzo, a Marco per questa occasione di incontro. Io volevo provare a soffermarmi su un episodio molto recente che mi pare illuminante e che è stato liquidato probabilmente gestendolo, come dire, fin dall'inizio con una messa in scena, e cioè l'intervento degli attivisti di ultima generazione a Palazzo Vecchio, di Last Generation a Palazzo Vecchio. Siamo, diciamo, Nardella i poteri della città sono riusciti a mandare in vacca, per essere accademici, anche questa occasione, montando un teatro del ridicolo e del grottesco. E secondo me una delle ragioni per cui è stato fatto è che invece quel segno era molto potente. Io da storico dell'arte, cioè uno che ha deciso di dedicare la propria vita a quello che chiamiamo patrimonio culturale, trovo la campagna globale di Last Generation azzeccata. Colpire in modo pacifico e incruento, senza fare davvero dei danni, il patrimonio culturale, usarlo per parlare di quello che veramente vuol dire il patrimonio culturale, cioè ridare all'arte la sua voce contro, la sua voce antisistema, andando a colpire qualcosa che, andando a colpire simbolicamente, non danneggiando, ma colorando in maniera reversibile, qualcosa che invece è stato messo al servizio di un progetto regressivo di società. Ciò che dovrebbe aiutarci a cambiare le cose, invece è stato reso uno degli assi portanti del sistema così com'è. A Firenze questa cosa di colpire Palazzo Vecchio avrebbe potuto avere un significato doppio, in profondo, perché Palazzo Vecchio è insieme uno dei punti apicali del patrimonio culturale fiorentino, un patrimonio peraltro petrolizzato e espropriato nei suoi modi di amministrazione, la privatizzazione fatta da Renzi, muse, ricordate sotto Natale il punto simbolico di obbligare i lavoratori precari del patrimonio a lavorare anche il giorno di Natale, cioè la schiavitù del patrimonio culturale, la cosa che dovrebbe liberarci, che diventa invece l'ennesima catena del sistema, ma è anche il luogo, è il palazzo pubblico, è il palazzo della città, è il palazzo del potere civico ed è il palazzo di tutti. Ed è un palazzo che è stato teatro negli ultimi anni di alcuni degli episodi più feroci, simbolicamente parlando, la convention dell'hard luxury, del lusso estremo a cui viene affittato il Salone dei 500. Il Salone dei 500 che nasce come sala, come grande sala del Consiglio durante la Firenze savonaroliana e di Pier Soderini dopo la cacciata dei Medici, cioè in un momento in cui si prova, fra mille contraddizioni, a tenere insieme una repubblica antisignorile prima della definitiva sconfitta del modello mediceo che oggi celebriamo, la Firenze dei Medici, la Firenze del grande mecenatismo, Cosimo, dimenticando il Cosimo torturatore, il Cosimo che costruisce le fortezze con i cannoni puntati sulla città, totalmente dimenticato Filippo Strozzi, che da solo il nome è il viale della fortezza, ma Filippo Strozzi che si suicida nella fortezza accusando Cosimo di cesarismo, cioè di stroncare la democrazia a Firenze. Ora, quell'episodio intanto ci ricorda che il patrimonio culturale è conflitto, non è camomilla, non è sedazione. Il patrimonio culturale è sempre stato conflitto, cosa che gli storici dell'arte dicono nei loro studi, che leggono solo loro, ma che tendiamo a dimenticare nel discorso pubblico. Non è un momento di intrattenimento. La Giuditta di Donatello, che sta in Piazza della Signoria come una copia, e qui ci sarebbe da fare un lungo discorso sulla sostituzione degli originali con le copie nei centri delle città, in parte, ma solo in parte reso necessario dalle conseguenze del modello estrattivo dall'uso dei combustibili fossili, ma in realtà cavalcato come un'occasione di musealizzazione, per cui per vedere l'originale La Giudizia di Donatello che sta nella sala dei Gigli dentro Palazzo Vecchio devo pagare un biglietto, un'opera che sta nello spazio pubblico, e la trasformazione della città in copia come dire, ha un valore simbolico in sé. Ma La Giuditta di Donatello arriva in Piazza della Signoria quando non c'è nessun'altra statua, 1459, e ci arriva come trofeo della Repubblica che ha cacciato i Medici. Era al centro del giardino di Via Larga, Palazzo Medici Riccardi, la prefettura, Palazzo dei Medici che diventa il Palazzo del Prefetto, a proposito di persistenza dei segni del dominio, diciamo, nella città. E viene e si decide, mentre il David Donatello che stava in una stanza viene messo dentro il Palazzo Vecchio, la Giuditta diventa una statua pubblica. Inizia da lì. Cederà il posto al David di Michelangelo per decisione di una commissione. Il Vescovo di Firenze recentemente ha detto che rivorrebbe il David per il luogo in cui Michelangelo aveva pensato, cioè in cima a uno degli archi rampanti del Duomo. Mi colpisce che il Vescovo di Firenze abbia da pensare a questo, con tutte le cose a cui avrebbe da pensare, ma la cosa interessante è che sta in Piazza della Signoria perché lo decide una commissione di cui fa parte Botticelli, Leonardo, perché quell'opera deve essere un simbolo civico. È la piccola Firenze che, come David, resiste contro il Golia delle grandi potenze che invece sono già signorie e non sono repubbliche. Oggi abbiamo preso questo segno rovesciandolo nel segno della nostra schiavitù, della nostra sottoposizione estrema. Se c'è un feticcione è quello del David di Michelangelo. Ora, quella Giuditta rimane lì in tutti i secoli perché viene continuamente risemantizzata, cioè ogni generazione gli cambia il significato. È quella che Eco avrebbe chiamato un'opera aperta, e dura perché Donatello è stato così bravo da farla non medicea, non c'ha le palle dei medici sopra, ma è risemantizzabile, cioè gli si può ridare un significato. Ora, tra le cose che può dire qua, dove non c'è bisogno di parlare di lotta politica, perché semmai sareste voi a insegnare a me qualcosa, ma se uno storico dell'arte può dire qualcosa, è che il patrimonio culturale è da sempre un luogo di conflitto. E che una delle lotte che bisognerebbe fare oggi è risemantizzarlo, ridargli un senso di liberazione, invertendo il senso della narrazione. E imbrattarlo di vernice lavabile è un segno piccolo, contraddittorio, avrà tutti i limiti che volete, ma ha almeno il merito di rifare di un luogo di oppressione un luogo di conflitto. E su questo bisognerebbe, credo, lavorare, ci sarebbe molto da fare insieme. Il movimento che è cominciato in realtà in Sudafrica con la statua di Cecil Rhodes nell'università, in una grande università del Sudafrica, e che poi con Black Lives Matter ha preso tutto l'Occidente, la contestazione delle statue, la decolonizzazione del patrimonio culturale, in Italia sostanzialmente, a parte qualche episodio, non è entrato. Ora, non sono io storico dell'arte che suggerisce di andare a buttare giù le statue rinascimentali, ma ridare un senso collettivo a questo patrimonio in una chiave di lotta e di liberazione è una cosa che ha un senso. Provo a dire altri 3 minuti perché. Quel libro che è stato generosamente citato prova a dire che la trasformazione del patrimonio culturale in petrolio, questa è un'espressione inventata da Mario Pedini, ministro democristiano dei beni culturali della P2, e poi, diciamo, resa globale da Gianni De Michelis, governo Craxi, metà degli anni Ottanta, un convegno organizzato a Firenze dal Partito Comunista, la valorizzazione del patrimonio culturale, e lì De Michelis dice: l'arte è il nostro petrolio, se non renderà soldi non dobbiamo mantenerla, non si potrà mantenere né si dovrà mantenere. E parte una bambola per cui quel giorno c'era Giovanni Previtali, grande storico dell'arte e grande comunista, membro del comitato centrale del partito, che dice: oggi, scrive su l'Unità, è partito il treno della mercificazione del patrimonio. Era l'85, oggi questo treno ha corso moltissimo e noi ne siamo stati totalmente travolti. Quell'idea del petrolio aveva a che fare non solo con un uso che legittima l'idea di usare il patrimonio in una battaglia contro energie fossili per la salvezza del pianeta, lo legittima letteralmente. Se c'è una città in cui quella cosa ha avuto un senso è Firenze, perché è il petrolio. Ma aveva a che fare anche con l'idea in che, diciamo, in gioco non c'è il patrimonio, c'è la democrazia. Cioè l'animale grosso in questa caccia è la democrazia, cioè la rappresentanza. Palazzo Vecchio è anche il simbolo di delle magistrature comunali, della democrazia comunale abbattuta, cioè Dimitri che ne sa qualcosa. Renzi parte nella campagna per conquistare il paese, ahimè per un po' gli riesce, con lo slogan del sindaco d'Italia. Oggi si dice, ed è vero, che una delle minacce di questa destra fascista al governo è un abbattimento ulteriore della Costituzione del 48 in senso presidenzialista. Ma l'elezione del sindaco che cos'è se non presidenzialismo? L'elezione del presidente della regione che cos'è? E la legge toscana della regione è iperpresidenzialista, è, diciamo, plebiscitarista. Allora, questo cosa vuol dire? Che l'opposizione in consiglio comunale potrebbe anche non esserci, nel senso che purtroppo è ridotta a una funzione simbolica di bandiera. Potete dargli fastidio su qualcosa, ma il meccanismo è pensato così, e si può essere bravissimi come siete bravissimi voi, ma ahimè i margini sono piccoli. Cioè c'è stato uno smontaggio che ha ridotto la democrazia, questo nel discorso pubblico è evidentissimo, al momento della decisione. Bisogna sapere la sera del voto chi governerà, cioè la riduzione della democrazia a governo. Tra l'espulsione dei residenti dai centri storici della città storica e l'espulsione degli elettori dalle urne c'è una relazione strettissima. L'astensione di massa, che non è un effetto collaterale, ma è il fine è il fine vero delle politiche che sono perseguite negli ultimi 30 anni, cioè l'obiettivo è che voti sempre meno gente. E ci siamo siamo arrivati un po' alla fine del percorso. Allora, tra, diciamo, quello che succede alla città e quello che succede alla democrazia c'è un nesso forte, è lo spazio pubblico, non per caso, è la polis, cioè la politica. Allora, una lettura politica del patrimonio culturale e di ciò che succede a una città che è anche un pezzo, diciamo, apicale del patrimonio culturale italiano, è secondo me l'unica lettura possibile e produttiva. Cioè, la distruzione dello spazio pubblico a Firenze è il simbolo e nello stesso momento il laboratorio della distruzione della democrazia in Italia. Tra queste due cose c'è un nesso, e quindi il problema non è guardare a tutto questo con gli occhi dello storico dell'arte, del sociologo, dell'esperto di turismo. Il problema è il sistema democratico e l'espulsione dei cittadini non solo dalle case ma dal sistema. Questo credo sia il punto fondamentale. Grazie. E parliamo di conflitto, aggiungiamo un contrasto, quindi a quanto stiamo facendo finiamo il giro. Dico una parola veloce io di introduzione, passo di nuovo la parola a Lorenzo e poi stiamo per sentire Alessandro. Alessandro Santoro per la comunità di base delle Piagge. Infatti questa la introduco velocemente, è una comunità che esiste, si definisce come tale da quasi 30 anni, 28-29 anni, da quando Alessandro, cioè, risiede, vive il quartiere, ed è il tentativo di creare rapporti, di dare dignità a una periferia, a una zona periferica delle città che ha visto scelte urbanistiche o quantomeno dimenticanze istituzionali che hanno fatto sì che vi si formassero importanti complessità sociali, ambientali, relazionali. Un quartiere che ancora oggi ha tante difficoltà come quella urbanistica, è chiuso dalla ferrovia, dal fiume, la via Pistoiese, l'inceneritore, l'autostrada e il viadotto all'Indiano, un alto tasso di abbandono scolastico, una povertà economica, ancora parlavamo prima di carcere, anche un'alta percentuale di detenuti da Sollicciano, insomma, provengono dalle carceri, ma insomma conosce tutto quanto caratterizza in generale le periferie d'Italia. Infatti la vorremmo usare come occasione, simbolo per una periferia di questa città, come simbolo per le periferie tutte. Le Piagge sono comunque anche un quartiere in divenire, un quartiere anche recente che 30 anni fa mancava di ogni servizio e che addirittura non aveva, fino a quando poi non è stata aperta a tutti gli effetti di forza, neanche una piazza, il luogo pubblico per eccellenza. Adesso alle Piagge esiste una comunità viva, ben radicata, numerosa, che si organizza in associazioni, cooperative, ma anche in gruppi informali e si occupa di numerose, moltissime questioni, dal doposcuola dei ragazzi di ogni età, ai progetti educativi, artistici, la scuola informale per adulti, la scuola di italiano per stranieri, dico ancora qualcosa, come l'isola del riciclo, il lavoro di inserimento per i detenuti, tutto un lavoro di progettazione condivisa assieme agli abitanti del quartiere per gli spazi del quartiere e centinaia di altre cose a carattere ricorrente oppure occasionale che non sto a citare. Solo un'ultima menzione per la casa editrice Edizioni Piagge. Questo è un libro che esiste da 10 anni e siccome siamo nel Festival di Letteratura Claridade, è una casa editrice indipendente che è fiera di essere indipendente ma anche schierata, partigiana e piccola, nel senso di preferire rapporti vis-à-vis, faccia a faccia, piuttosto che gli scaffali di vendita. Ecco, da tanti anni la comunità delle Piagge anche per questo è diventata un luogo di osservazione privilegiato della città, del paese, diremmo del mondo, appunto la usiamo come simbolo della periferia. E per parlare di questo abbiamo chiamato Alessandro Santoro per mettere in contrapposizione una città non molto vista dalle istituzioni, dai titoli dei giornali, però in compenso vivissima, da contrapporre al centro di cui stavamo parlando. Per aggiungere una nota alla domanda e poi lasciarti parlare, un attimo la parola a Lorenzo. Marco parlava appunto delle Piagge, no? Come un po' periferia della città di Firenze, periferia contemporanea che però, come ha spiegato il professor Agostino Petrillo anche all'interno di uno dei volumi che abbiamo curato, è un po' riduttivo, cioè la periferia non è più quello spazio marginale che sta appunto sui confini della città, ma la periferia è più una condizione socio-relazionale che può caratterizzare contesti anche più centrali, quindi ci possono essere delle zone periferiche, quindi in cui c'è una difficoltà aggregativa, delle tensioni insomma faticose da anche gestire e con le quali convivere anche nelle zone più centrali. Invece le piagge, appunto Marco, che comunque lavora lì, mi ha raccontato anche una serie di esperienze che attraverso il conflitto, appunto, attraverso una sana idea di conflitto, mettono un po' in discussione un'idea di città che è cristallizzata sull'anestetizzazione totale del conflitto, no? Quindi un conflitto che può anche essere generativo, un conflitto che è sano laddove dei diritti di frontiera non sono rispettati, e quindi laddove non arriva il mercato, la politica, i cittadini hanno necessità di auto-organizzarsi e ridefinire il proprio spazio abitativo e rispondere a quelle che sono le esigenze reali. Poi le esigenze sono sicuramente gerarchizzabili, no? Qui siamo in uno spazio che ci descrive molto bene questo, perché appunto laddove la legalità non coincide con la giustizia è bene comunque perseguire un conflitto che metta anche in discussione questa tensione che c'è tra legalità e giustizia. Quindi Marco appunto mi raccontava un po' di esperienze e penso che questa idea di periferia possa essere argomentata in maniera sicuramente più interessante da Alessandro, e ci possa portare una descrizione di quello che avviene in una città un po' lasciata ai margini, ma che in realtà ha una sua centralità molto viva. Beh, intanto grazie, ciao a tutti, a tutte. Vedete, cose esageratissime proprio. Mi ho sentito parlare con molto desiderio, anche sono molto contento di essere qua ad ascoltare, preferirei stare da quella parte lì e non raccontarvi troppe cose, che rischio poi di fare un lungo elenco, diciamo, quello che può servirvi, forse servirvi, insomma, può essere interessante, diciamo così, è che tutte queste cose che ascoltavo da voi, insomma, me le sono vissute, diciamo così, stando in quella realtà, vedendo anche proprio questo precipitato, diciamo così, della città, no? E anche rispetto alla periferia, il modo con cui poi ci si rapporta, diciamo così, da parte del centro, dell'istituzione, della politica, dei poteri rispetto alla periferia come quella delle piagge. E quindi questo può essere davvero molto molto interessante. Mi piacerebbe provare a prendo spunto da un'espressione, quando è stato la scorsa settimana da noi c'è stato una persona che per noi è stato un grande amico, continua ad essere un grande amico, che è Renato Curcio, con cui lavoriamo spesso, con cui abbiamo un rapporto molto stretto, lavoro di ricerca sociale molto importante. Fra le cose ci siamo detti, in questa occasione ci siamo incontrati per fare una riflessione un po' sul lavoro sociale, che poi quindi che è un po' un lavoro anche trasversale, quindi si occupa anche appunto di città, di cittadinanza e di tutto quello che comporta questo. E alla fine proprio del discorso lui ha parlato ha usato un'espressione che a me mi è rimasta proprio lì. Io ho detto, ma forse è riuscito a condensare in due parole, perché sono due parole, quello che stiamo cercando di essere dentro a quella piccola periferia che è una pezzettina di città, ecco. E lui parlava di pensiero, dobbiamo imparare tutti ad essere capaci di avere un pensiero istituente. Istituente. Appena lui ha usato questa questa parola mi è venuto in mente quello che, come noi siamo stati definiti da un grandissimo architetto a cui ho voluto molto bene, che si è un po' lasciato andare negli ultimi anni, poi è morto, si chiama Giancarlo Paba, che a Firenze ha fatto delle cose molto importanti e molto belle, che definiva la comunità delle piagge una comunità insorgente, prima ancora del GKN, diciamo così, ecco, definiva la comunità delle piagge, ma non perché voglia ora recuperare io questo termine e assumerlo per la comunità delle piagge, benissimo, bisognerebbe essere tutti insorgenti, ecco, secondo me, quindi siamo a posto, ecco. Infatti ci dovrebbe essere una cittadinanza insorgente, una cittadinanza istituente. Il problema è che questo pensiero istituente, diciamo così, può essere dato nel momento in cui le persone sono davvero cittadine, cioè sono capaci di essere considerate, viste, guardate, e si possono sentire cittadini, cioè soggetti capaci di cambiamento, di trasformazione. Quello che avviene, mentre io sento parlare, ho detto, ma queste cose non ci stiamo dicendo. Se io portassi qua 1000 persone delle 10.000 che vivono dentro il quartiere delle piagge, comprese gli insediamenti informali che ancora esistono nella realtà delle piagge, proprio informali a livello così dell'informalità urbanistica, diciamo così, cosa avrebbero capito? Quanto avrebbero compreso di questo linguaggio che stiamo utilizzando, che magari utilizzo anch'io, non è che voglio puntare il dito su qualcosa, voglio soltanto arrivare a un concetto, a un'idea, che penso che c'è un prelavoro, diciamo, prima di questo, che è quello che noi abbiamo condensato tra l'altro nel primo libro che abbiamo fatto, che è un'espressione che abbiamo utilizzato e che vi rilancio, che è ridare la parola. Restituire la parola. Restituire, potremmo dirlo, soggettività, cittadinanza, la capacità delle persone di sentirsi capaci di essere, portatori davvero. No? Ora va di moda questo portatore di interessi, a me fa un'impressione pazzesca. Visto che noi abbiamo anche un'esperienza importantissima, secondo me, di un mutualismo anche finanziario che non prevede appunto nessun tipo di interesse se non quello di autogestione del denaro, e anche per poter avere un pensiero istituente bisogna fare in modo che le persone possano avere davvero la parola, possano sentirsi soggetti di una storia, partecipi di qualcosa che li riguarda. Voi andate a vedere quali sono i meccanismi di partecipazione che da anni, in questi ultimi 20 anni, ha prodotto, diciamo così, le varie città. Io conosco bene quelle di Firenze, ma non soltanto, anche di altre città, di questa pantomima che ci viene buttata sempre addosso, di questi cantieri, ascolto dei cittadini, che sono una balla colossale. Dove noi però, usando poi anche il terzo settore e tutto quello che comporta di questo, creando delle strutture che sono fra il sociale e appunto poi catalizzatore di interessi anche finanziari. Pensate per esempio tutto, ora vado così a ruota libera perché poi a volte mi inquieto su certe cose. Pensate per esempio tutto in questo momento la gestione dell'inclusione sociale, dell'inclusione lavorativa nella città di Firenze, con progettualità eccezionali che ci vengono raccontate, è gestita da un consorzio di cooperative sociali che per conto del comune e come comune direi quasi, ecco, come comune fa questa operazione. L'inclusione sociale, capite? Cooperative che possono essere cooperative come la nostra piccola cooperativa, che però non ha interesse a entrare dentro a questo meccanismo e che diventa suddita di un'altra cooperativa che gestisce per conto del comune e decide per conto del comune chi può lavorare, chi non può lavorare. Un esempio su tutti, guarda, ve lo dico uno così almeno magari Dimitri ci fa un pensierino. Pensate, no? Allora, Per esempio, nell'inclusione sociolavorativa noi ci troviamo, io ho trovato alle piagge alcune persone che avevano bisogno di questa inclusione sociolavorativa. Bene, sono stati inclusi nelle nostre progettualità, piccole progettualità di lavoro, di impegno sociale, eccetera. Scatta il 65esimo anno, queste persone si ritrovano senza la possibilità, e non hanno altra possibilità se non quella, questa impossibilità di essere rinnovata questa inclusione sociale. Perché? E quindi improvvisamente queste persone che contavano su quel piccolo reddito, che è ancora meno del reddito di cittadinanza, quel piccolo reddito per poter campare e andare avanti, devono aspettare altri 2 anni senza più avere l'inclusione lavorativa e sociale, perché si arriva al 67, bisogna arrivare al 67esimo anno per poter avere questa pensione, trovandosi totalmente a terra, senza nessun'altra possibilità. Tu vai a parlare con le pretese di queste cose e loro dicono: ma la legge dice questo, la legge regionale parla di 65 anni, noi non possiamo rinnovare questo. Se noi decidiamo di rinnovare questa cosa, a noi ci tolgono la possibilità di poter gestire questa cosa, la passano ad altri. Oppure, non so, c'è questi progetti di inclusione sociale che durano per esempio 1 anno, vengono appaltati in quel caso, ne so, a un consorzio, scade il bando, tutte le inclusioni sociali si ferma e lavorative si fermano, quindi per 3 mesi, 4 mesi queste persone non ricevono niente, dopodiché vengono riappaltate a qualcun altro o alla stessa cooperativa, che riparte un altro progetto con soldi che arrivano poi magari dalle fondazioni bancarie, anche perché poi c'è questa subdola gioco fra pubblico e privato, eccetera eccetera. Comunque questa è una parentesi, chiudo subito, per dirvi che c'è una precondizione che noi bisogna riuscire a fare in modo, cioè il nostro lavoro è stato quello soprattutto fin dall'inizio di fare in modo che tutto quello che si cercava di costruire, le conflittualità che abbiamo costruito, dovevano essere gestite, vissute da chi quel territorio lo viveva, con la loro soggettività, col loro pensiero, che è veramente fondamentale, veramente fondamentale. E cosa è successo? È successo che per anni questa cosa, ora mi confesserò, diciamo così, faccio da solo perché tanto non trovo un prete che mi convinca, ecco, per confessarmi. E sì, infatti faccio così, ecco. Parlo un po' con Tommaso e mi confesso. No, infatti questa storia della confessione non c'entra nulla. E cosa vedo ora dopo 29 anni che questa comunità vive, no? Vedo quello che io chiamo riflusso, che è molto pericoloso. È così potente l'istituito e la modalità subdola dell'istituito che anche le persone che vivono dentro l'esperienza comunitaria, che si sono pian piano abituate e formate, diciamo così, in questo istituente, diciamo così, ha delle pratiche autogestionarie che sono le uniche, secondo me, possibili, le uniche possibili in questo momento, le uniche possibili per costruire una città che possa avere un sapore di comunità. Io non capisco perché non si dovrebbe pensare a questa, alla città come comunità. Come diceva Balducci, no? Della Chiesa, che deve essere comunità, ma lo direi anche per la città, con piccoli agglomerati, diciamo così, quasi un confederalismo cittadino, diciamo così, in questo mutualismo, diciamo così, autogestionario anche, dove ci si supporta e ci si aiuta vicendevolmente. Ma è così grosso, è così forte la tentazione conservativa dell'istituto, di quello che ha istituito, che si perde il desiderio di conflittualità. Cioè sempre di più le pratiche autogestionarie si complessificano e si rendono impossibili. Per cui se vuoi sopravvivere su quelle pratiche autogestionarie, devi comunque in qualche modo fare i conti con questo incantamento della, non so, dell'appalto X, del bene Y, dell'evitare la conflittualità perché così poi perdiamo posizione rispetto a quello che facciamo, che è terribile, che è una cosa terribile. E questo è perché le persone si è spenta piano piano la centralità del restituire prima di tutto la soggettività delle persone che vivono nel quartiere. Se è così, nel momento in cui noi abbiamo tentato di via via di costruire questo spazio di soggettività, questo comunitarismo vero, profondo, con tutti i difetti, contraddizioni, improvvisamente cambiano i soggetti, cioè le persone dentro alla città, dentro a questo meccanismo perverso, si trovano costrette a fare altre scelte, perché diventa sempre più un imbuto il lavoro, perché diventa sempre più precario, perché diventa sempre più difficile riuscire a vivere in un certo modo, e le persone poi fanno le scelte di uscire da questa loggia perché è più comodo, o non si può fare altrimenti che poter andare nella direzione di, come dire, di farsi addomesticare, diciamo così, da un sistema, no? E ti ritrovi con delle persone che hanno, da un lato, che diventano un po' schizofreni, diciamo, da un lato hanno questo istinto, questo desiderio di poter in qualche modo continuare a vivere questa esperienza di autogestionare, da quell'altro questa forza che arriva quasi così trasversale, che ti dice: ma te devi cercare di conservare te stesso, devi cercare di mantenere il tuo piccolo mondicello. Ecco. E si è sgretolata completamente questo solidarismo mutualistico profondo, dato anche dal tentativo di costruire questa soggettività e questa restituzione della parola, no? Della capacità di, quindi, anche di progettualità, senza perdere la tenerezza, come direbbe qualcuno, che è una pratica importantissima. E nel senso anche non soltanto la tenerezza nei rapporti così anche di corpo, ma anche la tenerezza nei rapporti anche dello spazio urbano che stai vivendo, di sentirlo tuo, di volerli bene. Una delle cose più belle che mi è capitato di scrivere alle piagge sono, voi se volete vi invito, mi fa piacere anche venire a vedere, a volte lo faccio con i cittadini, li faccio scendere dalle case, lo facevo via, perché ora diciamo una cosa pre-Covid, ecco ormai. Non c'è più prima di Cristo e dopo Cristo, c'è pre-Covid e dopo Covid. E pre-Covid lo facevo anche, facevo scendere o fermare magari le persone quando facevano alcune attività, eccetera. Il tramonto in periferia, lì alle piagge, è straordinario. È un posto dove c'è dei colori pazzeschi proprio. Perché a volte è proprio bello riuscire a restituire alle persone che il posto dove stai non è che lo devi per forza rendere bello, è farli scoprire la bellezza che c'è alla faccia di chi invece ti ha messo lì come discarica. Perché la bellezza c'è, e c'è davvero, e si tratta di scovarla, di tirarla fuori. E le pratiche che noi dovremmo costruire, cioè anche la storia delle persone, è un patrimonio culturale. La vita delle persone, il solidarismo di strada delle persone è un patrimonio culturale che noi dovremmo riuscire a restituire. Dovremmo riuscire davvero a non mercificare e a non svenderlo, come sta succedendo per tanti pezzi di città. Ho fatto una gran confusione, non so cosa c'entrasse, ma mi lascio. Grazie, grazie davvero. Come sempre abbiamo messo troppa carne al fuoco, abbiamo sbagliato i tempi perché abbiamo iniziato in ritardo e vorremmo dire ancora tanto... Ho sbagliato io i tempi, non gli altri. E quello... Allora, quindi se siete d'accordo, avevamo detto di concludere l'incontro alle 20, quindi in questi ultimi 15-20 massimo minuti assieme raccogliamo adesso delle veloci suggestioni, domande, contributi, chi volesse tutti insieme velocemente dal pubblico. Al volo la parola a Giacomo per introdurre un secondo giro e vorremmo ancora sentire di nuovo la parola di tutti per concludere assieme questo incontro, ancora un quarto d'ora assieme. Passiamo la parola a chi volesse parlare, se qualcosa fosse da dire, scusateci la perentorietà. Ciao a tutti e tutti di nuovo, per l'ennesima volta a tutti e tutti. Niente, è stato molto interessante, soprattutto grazie per averci detto tutte queste cose. Ci sono un bel po' di temi che sicuramente interessano il centro sociale, come e le iniziative che abbiamo fatto, che fa storicamente il centro sociale per quello che riguarda il rapporto tra il centro sociale stesso e la città, l'amministrazione della città, la pianificazione e progettazione della città. Negli ultimi anni in particolare ci siamo oggettivamente riattivati particolarmente su quello che riguarda il tecnicismo dell'azione di governo, almeno locale, che fa strano ogni volta che lo diciamo, in effetti, ed è molto inusuale per un centro sociale, diciamo, come tipologia di pulsione. In questo processo la nostra chiave di lettura è stata esattamente la prossimità, cioè piuttosto di sporcarsi le mani, accettare dei meccanismi che oggettivamente non si confanno a un centro sociale, cioè burocratici, formali, istituzionali, però cercando di creare il più possibile, ma per noi stessi davvero, un'azione di prossimità, un'azione diretta, qualcosa che sia reale, dinamico, vivo. Quindi questo discorso qua, ad esempio, per noi è una cosa reale, come anche noi periferici. Il comune di Firenze finisce esattamente dietro l'ultimo capannone, cioè l'esatto confine, e quindi niente, no, da questo punto di vista davvero è interessante sentire la vostra, e quindi provavo a rilanciare a voi e anche a chi ci sente, diciamo, secondo noi, quando abbiamo preparato un po' questo incontro, un elemento ingombrante di questa discussione è la legalità, il concetto di legalità e di legittimità. Essere giusti o essere attivi? Quindi, come, quanto, secondo voi, perché penso che ognuno di noi abbia un'opinione abbastanza diversa a riguardo, percepisce o considera la legalità come vincolo, come strumento o come fine? Ovviamente mi rendo conto che è una domanda magari non da fare gli ultimi 5 minuti, però ormai è andata così. E tra l'altro, sì, ok. Su questo, scusate, Tommaso. Allora, io sono convinto che se la legalità non coincide con la giustizia, la legalità, come dire, è un problema. E questo è quello che è successo negli ultimi anni in Italia. Quando si discuteva l'Assemblea Costituente, Giuseppe Dossetti, che non era un pericoloso estremista, è finito monaco, voleva approvare un articolo che diceva che la resistenza individuale e collettiva alle decisioni dei poteri pubblici che violino i principi fondamentali della Costituzione era diritto e dovere singolo e collettivo di tutti i cittadini. quella cosa non passò perché si disse che la Corte Costituzionale avrebbe affondato le leggi incostituzionali. Sappiamo com'è finita. Io credo, l'ho detto recentemente anche in una grande assemblea scolastica, dicendo che i momenti veri di educazione civica nelle scuole sono le occupazioni in questo momento. Lo dico dal rettore di un'università della Repubblica, sapendo bene che le cose che si fanno anche nell'università per provare ad attuare il progetto della Costituzione si fanno intorno ai confini, spesso oltre i confini della legalità. Perché se stai dentro, invece, fai qualcosa che smonta sistematicamente quel progetto. Quindi il punto è la persona umana, come fine e mai come mezzo. Questa è la bussola, ma è la bussola della Costituzione, che è la legge fondamentale. Per fortuna, finché non la abbattono, in Italia la legge fondamentale è giusta. Allora, la legalità costituzionale è un conto, la legalità delle leggi è un'altra. Per me, personalmente, la bussola continua a essere la legalità giusta della Costituzione. Non so se ho risposto. Allora, senti, sì, no. Allora, legalità è un bel principio, ma bisogna intenderci anche sul significato del principio di legalità, perché se legalità è rispetto delle leggi, rispetto della legge costituzionale, siamo tutti d'accordo, ma legalità, il principio di legalità significa anche altra cosa, e io mi rifaccio a Calamandrei e a tanti altri. Il principio di legalità è sostanzialmente quel principio che configura che quell'ipotesi che uno mette in atto, se è reato deve essere punito, ma se non è reato non è punito. Se io ho un cattivo rapporto con noi, è il nullo un crimen sine lege sine pe. Allora, se legalità è questo concetto, allora il divenire anche della giustizia all'interno di uno deve essere rivisto fondamentalmente, perché la Costituzione è una gran bella norma, è la Grundnorm Kelsen del nostro ordinamento da cui tutto deriva. Ma sopra questa legge c'è altro, c'è un diritto naturale a livello internazionale che deve essere riconfigurato. Quindi se tu riporti quel criterio di giustizia e quel criterio di legalità nel contesto della Costituzione oggi, ti appare subito qualche cosa. La Costituzione è stata rivista tantissime volte, ritoccata, rimessa a posto, ci sono stati tentativi di stravolgimento, rigettati, però è stata modificata, rimessa. Insomma, ha bisogno ogni tanto, come le buone macchine, della revisione, e di conseguenza tutte le leggi. Il problema di quel principio di legalità Calamandrei è che oggi va tutto invece in un altro fronte, perché se la legge mi dice che lo scafista è, se il raver è, se che ne so io, adesso vogliono invece togliere il reato di tortura, allora, come vedi, ti va di rispettare quella legge che dice lo scafista 30 anni è il criminale, il vero criminale rosa, o il rever 7 anni di carcere? Perché allora quel rispetto della legge ti dovrebbe comunque farti inchinare. Ma tu come cittadino hai il dovere di resistere a eventuali cambiamenti. Come vedi, il rapporto non è semplice. E va riportato a parole sagge come quella di tanti grandi nostri giuristi, però non è così diretto il rapporto tra legge e rispetto della legge e comportamento del cittadino, e non è né lineare, ma né volutamente deve essere lineare, deve essere mantenuto all'interno della propria coscienza quella resistenza e ribellione naturale rispetto a quello che è il divenire, perché ciò che era 20 anni fa consentito non lo è oggi, e ciò che non era consentito 20 anni fa lo potrebbe essere oggi. Tutto cambia, quindi mobilità su questo. Ci sono... Vai! Oh, parla forte perché il microfono... Non si sente, proverò, mi impegno. E allora, io volevo un po' tornare, diciamo, all'argomento che era centrale dell'incontro di questa sera, perché questa espropriazione dei centri delle nostre città nasce da molto tempo. In altre città, in altre nazioni, in altri paesi è cominciato molto prima. Parigi, Londra, Manhattan a New York. E sembra che non ci si possa fare niente. Sembra che abbiamo quasi una forza inarrestabile di fronte a noi. Sembra che le nostre democrazie nate dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiano le armi spuntate, cioè gli strumenti, diciamo così, quelli che dovrebbero essere gli strumenti di controllo pubblico, abbiano le armi spuntate. Io insieme a Marco ho fatto parte di un'esperienza nel centro storico di Firenze, la Polveriera, e si è cercato in qualche modo anche di portare l'attenzione con le nostre pratiche su questo. Quindi non sono certo qui a fare un discorso di rinuncia o di inutilità di questo tipo di battaglia. Però mi viene quasi da dire, se è così, forse allora oggi come oggi, con i rapporti di forza di oggi, occupiamoci lì dove viviamo, delle periferie, stiamo nell'ombra. La democrazia, la nostra democrazia della Repubblica, ormai ci offre soltanto un'opposizione simbolica, come dicevi te prima, allora pratichiamo nell'ombra l'autogestione, allora torniamo in quelle zone d'ombra, in quelle che possono essere conflittualità più alla nostra portata. E in questa città ce ne sono parecchie. Io cerco di dare una mano ai compagni e alle compagne che si trovano a Prato a fare la lotta nel distretto tessile, tirando su una piccola scuola d'italiano per gli operai che si sindacalizzano, ma ce ne sono moltissime altre, sicuramente anche molto più importanti. Forse questa può essere metafora, no? Di quello che è la nostra strada adesso. Cioè, la nostra strada adesso non è quella dell'assalto, del cambio nel centro, del potere. Non ce ne abbiamo, forse non solo non ce l'abbiamo le forze, forse non abbiamo ancora neanche le idee pronte per poter capire cosa fare e come farlo. Però possiamo tornare dal basso, ritornare nel basso e agire dal basso. Questo forse abbiamo molte più risorse, abbiamo molte più idee e non so se sono riuscito a essere chiaro. Allora, io non credo che non abbiamo gli strumenti e non credo neanche che dobbiamo rinunciare, perché non è un problema solo di centro. Secondo me è proprio un problema di trasformazione del nostro modo di essere in relazione con gli altri, con lo spazio, con le cose e con noi stessi. Quello che si sta tentando di fare, non saprei, io non penso ai poteri oscuri, penso che è una cosa a cui alla fine noi stessi collaboriamo, ed è trasformarci in consumatori e in persone molto sole, ok? Si stanno rompendo le reti, ma quello che tu dici succede in tutti i centri storici delle città, è vero, ma non solo nei centri storici, succede ovunque vi sia qualcosa che è mercificabile. Il punto è che siamo arrivati anche alla mercificazione delle nostre stesse vite, ok? E in questa rottura delle reti io penso che possiamo fare tanto. Quello, ora, certamente non lo devo dire a voi, perché forse voi siete magari meno capaci di noi di capirlo, perché voi vivete in un pieno, noi viviamo ormai in un vuoto di relazione. Quindi quello che voi fate, quello che tu dicevi, quello che Don Santoro fa alle piagge, quello che Tommaso insegna ai suoi studenti, io penso che invece sia fondamentale, perché se no non c'è angolo di mondo in cui ci si può salvare. Io mi ero segnato un po' di cose mentre parlava Alessandro, e una delle dei temi secondo me più importanti su cui ribadire, appunto anche per ritornare sul discorso della giustizia sociale, è proprio quello della capacità di progettualità, cioè laddove i cittadini hanno una reale abilitazione nel prendere parte alle decisioni che investono i propri territori, a quel punto si mette a terra, poi può essere più o meno coinvolgente, però si mette a terra un'idea reale di democraticità. Però qual è la salute democratica delle nostre città adesso? Nel senso, abbondano le retoriche sull'inclusione partecipativa, sui percorsi di ingaggio sociale, eccetera. Noi, diciamo, questa collana editoriale che abbiamo curato è composta di 3 volumi. Un primo che è Città Ostile, che diciamo attraversa le conflittualità urbane e la violenza che le città producono. Uno è Città Fragile, che è sull'impatto che la pandemia ha avuto sulle città, e il terzo è Città Viva. Città Viva prova a mettere insieme tutte le esperienze formali, informali, attraverso percorsi più legali e quelle che invece rompono il meccanismo della legalità, di progettualità dal basso e di auto-organizzazione e autogestione degli spazi. E secondo me la cosa che può mettere insieme tutti quelli che sono stati un po' i punti di vista di stasera è proprio che la qualità democratica come processo e non come modello vive appunto in spazi come questo, dove esiste una democrazia che noi abbiamo provato a definire all'interno del nostro contributo immediata, cioè che viene subito messa a terra e non ha bisogno di intermediazioni, e che quindi in spazi che permettono anche un confronto di natura assembleare, quindi in scala ridotta, non lo si può fare nelle città coinvolgendo 300.000 persone in assemblee, però questi spazi qui permettono una democrazia territoriale che rendono le città, o comunque quelle porzioni di città, quantomeno più vivibili e più a misura di chi poi diciamo ci investe il proprio tempo e prende parte appunto alla vita all'interno degli spazi, all'interno di porzioni di territorio, all'interno di quartieri come possono essere le piagge. E secondo me appunto questa, un po' il filo comune è proprio questo, non tanto il qual è la legalità a cui riferire, qual è ancora l'enorme differenza fra giustizia e legalità, ma qual è la possibilità di fare pratica democratica nelle città e attraverso quali strumenti. Uno degli strumenti è il confronto, come stiamo facendo stasera, ma come in realtà tante realtà portano avanti nelle città e nei territori, e quindi penso che possa essere uno stimolo appunto riflettere su questo e anche mettere in discussione appunto le retoriche di partecipazione nelle città, che dicono che fanno i processi di ascolto della cittadinanza, e poi quando la cittadinanza della Piana si esprime sul fatto che non vuole un aeroporto e lo fa in maniera massiccia non viene minimamente ascoltata e si va avanti come dei panzer. Questo è un esempio, e questo per dire che la partecipazione sociale vive nel conflitto e vive di conflitto, e quindi mette un po' insieme appunto le riflessioni che sono anche poi state avanzate dal pubblico. Le sollecitazioni sono tante, mi verrebbe da dire che la legalità è una parola corrotta ormai, e credo che dovremmo smettere anche di pensare se è giusto vivere nella legalità oppure non vivere nella legalità. Legalità è, se uno vive nella legalità deve essere subordinato e suddito da un meccanismo istituzionale che ti fa vivere in quel modo lì, e non potrei fare altro che essere, come dire, valvassore di un meccanismo che ti controlla, tipo panottico di Foucault. E per cui io direi che c'è il dovere dell'illegalità e il dovere della disobbedienza, che è quello a cui tra l'altro voleva arrivare anche Dossetti, che lo riprendeva dalla Costituzione francese. Per questo vedete in Francia le cose sono diverse, perché nella Costituzione francese c'è il diritto alla disobbedienza nella Costituzione. Bene. Eh sì. e credo che noi è un diritto che noi dobbiamo riconoscerci. E io torno a quello che dicevo prima, lo riconosceremmo quando le persone si accorgeranno di come sono, e lo faranno quando davvero diventeranno soggetti, e riconosceranno di quanto sono servili a un sistema. E questo sarà così talmente distante da quello che ognuno di noi sente di sé, della sua soggettività, del suo desiderio di essere parte di qualcosa, cittadino davvero, che non può far altro che scegliere una strada diversa. La strada della conflittualità è una strada che Alex Langer avrebbe chiamato la strada dell'utopia concreta, cioè di rendere concreto quell'utopia che è quello che tu vorresti, che sai, che innuce comunque, che esiste, che c'è dentro la storia, che si tratta soltanto di tirarlo fuori, di farlo venire fuori, di non rimanere succubi di un meccanismo che ti dà le briciole e che ti permette di sopravvivere soltanto se ti rimani asservito a quel meccanismo lì, legale. Io credo che bisogna riuscire a vivere in questa altra modalità. Se me lo permettete, io vi leggerei un pezzettino dell'ultima raccolta di parole da ruminare. Sono parole che ci consegniamo tutte le domeniche come comunità e che vengono scelte dalle persone i primi giorni dell'anno. C'è un grande cesto abbastanza grande che viene messo lì nel nostro centro, e dove le persone mettono le parole che vorremmo che ogni domenica potessero essere lette e date alle persone che vivono l'esperienza della comunità. E quindi ogni domenica dal cesto prendiamo, diciamo, queste parole e le fotocopiamo e ce le consegniamo, e per la settimana ce le ruminiamo nel daffarsi della vita normale, quotidiana. In questa quarta raccolta, ora ho perso il segno, non lo troverò più. Finisco subito, non vi preoccupate. È di Sophie Scholl, si dice così, no, perché io con le lingue. Rosa Bianca, fondatrice del movimento della Rosa Bianca, una delle fondatrici, e dice così: il vero danno è fatto da quei milioni di persone che vogliono sopravvivere, gli uomini onesti che vogliono solo essere lasciati in pace. Gli uomini onesti, quelli che non vogliono che la loro piccola vita sia disturbata da qualcosa di più grande di loro stessi, quelli che non prendono posizione né sposano cause, chi non misura le proprie forze per paura di entrare in conflitto con le proprie debolezze, chi non ama agitare le acque o farsi nemici, coloro per cui la libertà, l'onore, la verità e i principi sono solo teorie, quelli che vivono in sordina, si accoppiano in sordina, muoiono in sordina. È l'approccio riduzionista alla vita. Se vivi in piccolo avrai tutto sotto controllo. Se non fai rumore, l'uomo nero non ti troverà. Ma è tutta un'illusione, perché anche loro muoiono, quelle persone che avvolgono il loro spirito in piccole palline per essere al sicuro. Al sicuro? Da cosa? La vita è sempre sull'orlo della morte. Le strade strette conducono allo stesso luogo dei viali larghi. Una candela debole si spenge proprio come una torcia fiammante. Scelgo io il modo in cui bruciare. Grazie a chi ha partecipato, grazie a Alessandro Santoro, Tommaso Montanari, grazie a Galli, Massimo Lenzi, Lorenzo ed Emma del collettivo Criticity. Grazie all'Emerson, i libri sono ai banchini, questa iniziativa si potrà riascoltare sul sito di Radio Wombat. Di nuovo, grazie a tutti. Grazie Marco.